Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. E con quella di oggi approdiamo alla puntata numero 179 del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. A tutti voi buona domenica da Gegè Telesforo e un ben ritrovato al nostro redattore Francesco Tromba, assente da qualche settimana qui dallo studio Groove Master, dove realizziamo la nostra prova del suono. Dove sei stato tutto questo tempo? Scusami, Sono stato a Verona. Sei stato a Verona. Oh, finalmente hai lavorato per l'Arena di Verona. Ti sei divertito, no? In realtà no, non ho lavorato per l'Arena. Come, sei andato a Verona e non hai lavorato per l'Arena? Per l'organizzazione di qualche grande evento, concerto? No, che hai fatto a Verona? Ho lavorato in un campeggio, in un camping. Ma come, un laureato in un campeggio? Che hai fatto? Animazione, hai organizzato spettacoli, no? Ho fatto un po' di tutto, dal giardiniere al cuoco. Ma che vergogna, ma come, un intellettuale ex di sinistra, laureato in scienze della comunicazione, ecco, come si dice spesso, braccia tolte all'agricoltura, invece tu le hai utilizzate per mettere a frutto le tue competenze anche in materia di giardinaggio. Devo dire che ogni tanto il contatto con la natura fa bene. Sì, fa bene, però hai perso il contatto con la musica e un po' mi dispiace, quindi oggi ti faccio recuperare, mio caro Francesco Tromba. Bene, questo è il Soundcheck, la prova del suono, andiamo alla musica e, mio caro Francesco, vorrei partire con qualcosa di particolarmente happy. Non sto parlando di Pharrell Williams, del quale parleremo magari più tardi, ma di un signore inglese, ottimo vocalist, anche un bravissimo attore, si chiama Sean Escoffery. Conosci questo signore? Ho sentito qualche pezzo un po' di tempo fa, però l'ultimo album non l'ho ancora ascoltato. Sì, noi l'abbiamo scoperto più o meno una quindicina di anni fa, ha iniziato a pubblicare dei singoli lì in Inghilterra, ha continuato la sua carriera di vocalist stampando e producendosi gli album da soli, da indipendente. Oggi invece ci propone un album freschissimo, si intitola In the Red Room, e il brano che ho scelto per presentarvi questa nuova pubblicazione di Sean Escoffery si intitola Nature's Call, e mi piace un sacco perché finalmente un brano divertente, felice e spensierato. Sei contento? Contentissimo. Andiamo qui con Sean Escoffery qui al Soundcheck di Radio 24. Molto felice questo tratto dall'album In the Red Room, con protagonista la voce di Sean Escoffery, ragazzo inglese ormai non più giovanissimo, con un brano molto divertente, come dicevamo, intitolato Nature's Call. E sì, la natura o le nostre nature ci chiamano, c'è un bel richiamo alla natura, quello del nostro Francesco Tromba, che ha abbandonato i suoi studi di comunicatore per andare in un bel campeggio a lavorare e a zappare la terra. Bravo, come dire, approvo questa scelta di vita. Devo dire che però è un campeggio all'interno delle mura di un castello, quindi c'è anche tanta storia e tanta cultura da raccontare. Che non deve mai mancare la cultura, mio caro Francesco Tromba, ma non devono mai mancare anche i concerti. Nel nostro paese ce ne sono tanti, la prossima settimana vogliamo annunciare le proposte più interessanti? Sì, iniziamo con Gilberto Gil, che venerdì 24 sarà a Roma all'Auditorium della Conciliazione, vicino casa mia. Tra quindi tutti gli appassionati di musica brasiliana non perderanno l'occasione di andare a ammirare e ascoltare Gilberto Gil. La stessa sera, se invece avete voglia di divertirvi un po' in musica, fra musica e teatro, c'è anche la Banda Osiris al Teatro Vittoria, sempre a Roma. Sì. Invece il 25 consiglio questo festival che si sta svolgendo a Firenze, si chiama Musica dei Popoli, dove ci sono tantissimi artisti etnici, diciamo, da tutto il mondo. Mm-hmm. Il 25 ci sarà Dobet Gnaoré. Perfetto. Che è una cantante, musicista, ma anche ballerina della Costa d'Avorio. Quindi da non perdere, sì. Per la prima volta in Italia? Forse no. Sì. No, c'è stata anche all'Umbria Jazz quest'estate. Mm. Poi? Paolo Conte, sempre sabato 25 al Teatro Galleria di Legnano. Ecco, questi sono i concerti che tu ci segnali, poi c'è tanta musica più vicina al versante jazz, ma magari ne parliamo poi nella seconda ora, quella che parte sempre qui su Radio 24 a partire dalle 19:15. Torniamo alla musica, il vocalist Cam pubblica un nuovo album e che cosa fa il furbacchione? Avendo prodotto per il veterano Ronald Alley, quindi per l'album di Ronald Alley, un brano intitolato My Favorite Thing, e avendo avuto anche un bel riscontro, ha recuperato questa produzione e l'ha inserita anche lui nel suo nuovo album. Mi sembra una cosa giusta, così non si butta nulla. E Cam con Ronald Alley è presente al soundcheck con My Favorite Thing. My baby won't talk to me. She giving me the third degree. The peace is sure enough disturbed. I know I'm just getting on her nerve. She's the only one I need. We were truly meant to be. Can't nobody keep it real like my girl. Nobody in the whole wide world. Let me be quick. Let me soundcheck. Il suono della musica. La super pop star del momento Pharrell Williams con Alicia Keys in Know Who You Are dal nuovo album di Pharrell Williams, che ultimamente ha anche visitato il nostro paese con una serie di concerti sold out, e Pharrell Williams continua a racimolare soldi e dollari da tutte le parti anche in virtù di questa partecipazione televisiva che fa in un programma che sinceramente ho visto e mi sembra abbastanza stupidino per un grande artista come lui, perché la pop star Rihanna adesso è protagonista, l'ho visto su Sky, di questo programma attraverso il quale si selezionano stilisti per pop star, e fra i giudici c'è Pharrell Williams, considerato in questo momento anche uno degli artisti più eleganti. Io sinceramente l'ho visto più volte sul palco Pharrell Williams in varie apparizioni televisive e non mi sembra così ben vestito. Beh, in realtà c'ha un discreto stile, magari forse un po' troppo un po giovane. Un po' troppo Pharrell Williams, un po' troppo giovane, scusa, perché? Stai perché parlando di me. Sei vecchio stile. Vabbè, io sono old school, poi sono anche un musicista di jazz, quindi mi vesto con il mio stile. Antico, ma mi sento a mio agio. Certamente non potrei mai indossare i bermudoni di Pharrell Williams, né le scarpe che mette lui, mette delle scarpe terribili. Comunque, da Pharrell Williams e Alicia Keys a dei signori che a me piacciono tantissimo. Mi piace questa band da quando hanno pubblicato il primo album nel 2005, Based on a True Story, e approdano con una nuova pubblicazione i formidabili Fat Freddy's Drop. Abbiamo già parlato di questa eccellente band neozelandese che si è formata proprio nel 2005 suonando in jam session, e poi hanno visto che le cose andavano così bene e hanno iniziato a produrre il loro materiale. Hanno avuto diverse proposte discografiche dalle le multinazionali, ma non hanno mai accettato, quindi continuano a essere, discograficamente parlando, indipendenti, a fare sold out in tutto il mondo. Ultimamente sono stati in giro per l'Europa, speriamo di vederli prestissimo in Italia. Sette elementi, sette eccellenti musicisti che coniugano la loro cultura maori, proprio perché sono neozelandesi, con le sonorità di oggi, dal dub all'R&B e soprattutto una grande vena reggae. Ti piacciono? Sì, tantissimo. Allora, il nuovo album da non perdere si intitola Blackbird, Fat Freddy's Drop, con Clean the House al soundcheck di Radio 24. Subito dopo arriva l'informazione. When I open my Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Tipicamente californiano, quello del bassista, sassofonista, polistrumentista Gerald Albright, dal nuovo album particolarmente fusion, anche questa pubblicazione di Gerald Albright. Il brano era Fiesta Interlude, tanto per capire che è domenica e ogni tanto dobbiamo ascoltare delle cose solari, mio caro Francesco Tromba. Allora, ci sono degli altri concerti in giro, ci vogliamo spostare su Londra? Sì, allora, lunedì 20 al The Garage ci saranno i The Charlatans, e invece martedì 21 all'Alexandra Palace Jake Bugg, e sabato 25 St. Vincent al Roundhouse. Questo a Londra. Sì. A Parigi invece cosa possiamo seguire? A Parigi abbiamo Giles Peterson domenica, proprio questa sera. Che cosa farà? Un DJ set? Sì. Un DJ set. Beh, da non perdere, perché suona sempre delle cose meravigliose. Sì, ne vale sempre la pena. Poi lunedì, domani, ci sarà all'Olimpia Elvis Costello. Ottimo. Sempre il 20, Sébastien Tellier al Casino de Paris, se avete voglia di un po' di musica elettronica. E invece Jamie Callum, sempre il 20, a Le Cigale. E infine il 23, il 24 e il 25 al Sunset, il trio di Birelli Lagrène. Presto ci andrò anch'io al Sunset lì a Parigi per un bel concerto con Sound Zero, credo il 4 di novembre. E comunque Birelli Lagrène sarà con il suo Swing Manouche presente al Roma Jazz Festival a metà novembre. E tutte le informazioni naturalmente si possono ottenere visitando il sito romajazzfestival.it. Allora, andiamo avanti con la musica. È ritornato in scena Raoul Midon, che qui con Diane Reeves ci fa ascoltare questa sua composizione originale intitolata Make It Better. Il nuovo album per lui si intitola Don't Hesitate. Il talento e la voce di Raoul Midon al soundcheck di Radio 24. Yesterday's gone and tomorrow looms. I've learned to contemplate the meaning of the afternoon. Make it better, make it better. Soundcheck, il suono della musica. Thank you. E se il polistrumentista Dix Duke realizza i suoi brani e li mette poi in bella evidenza su SoundCloud e Bandcamp, pur avendo firmato un bel contrattino con Giles Peterson e la sua etichetta, il veterano Prince, tornato in possesso dei master originali realizzati per la Warner Bros. E quindi avendo rimesso le carte in tavola in maniera pacifica con la sua casa discografica, ha pensato bene di firmare un nuovo contratto per nuovi album. Ed eccolo qui, due album nuovi, ieri li abbiamo presentati, Plectrum Electrum, molto più rock, e poi Artificial Age, che ci porta indietro nel tempo ma con sonorità assolutamente contemporanee. Il veterano Prince chiude questa prima parte del soundcheck, noi torniamo dalle 19:15 per la parte più jazz, e quindi grazie a Francesco Tromba, grazie a tutti voi, buon pomeriggio, ci sentiamo più tardi, eccolo qui, Prince con Time al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica, di DJ Telesforo. Seconda parte del soundcheck di questa domenica qui su Radio 24. Buonasera da Gigi Telesforo e anche dal nostro Francesco Tromba. Ci sei? Sì, buonasera a tutti. Allora, siamo pronti, mio caro Francesco, per dare il via a questa seconda parte, senz'altro più jazz, presentando una nuovissima pubblicazione, talmente nuova che credo che ancora non sia presente su iTunes Italia, ma andando a ricercarla in giro per internet sicuramente si può rintracciare questo nuovo album bellissimo per la Blue Note Records americana, che ha come protagonista il giovane batterista Otis Brown III, con tanta esperienza già sulle spalle, musicista che arriva dal New Jersey, che ha lavorato con Donald Byrd, musicista veterano che lo stimola e gli consiglia di recarsi a New York per studiare alla New School, ed è proprio alla New School che Otis Brown III incontra i suoi coetanei, colleghi come Robert Glasper, pianista che poi sarà presente con Jason Moran all'Auditorium Parco della Musica per questa 38esima edizione del Roma Jazz Festival a partire da metà novembre, Robert Glasper, poi c'è Ben Williams al contrabbasso, c'è John Ellis al sax tenore, chi altro c'è? Un giovane trombettista che si chiama, come si chiama? Keon Harold alla tromba, la partecipazione di Neil Felder alla chitarra, di Bilal come vocalist e anche due vocalist di riferimento per il jazz Gretchen Parlato e per un brano più gospel la bravissima Nikki Ross. L'album si intitola The Thought of You, protagonista Otis Brown III, album bellissimo che noi presentiamo oggi per la prima volta al soundcheck di Radio 24. Il brano è You're Still the One con Gretchen Parlato come vocalist. Thank you. abbiamo ancora qualche secondo, qualche minuto a nostra disposizione per farvi ascoltare un altro momento tratto da The Thought of You di Otis Brown III per Blue Note Records americana. Qui in evidenza la voce gospel di Nicky Ross, e per realizzare questo brano splendido si richiede la partecipazione naturalmente di un organista, e l'organista è proprio Shedrick Mitchell, della nuova generazione anche lui. Quindi Otis Brown III, Nicky Ross, vocalist, protagonista di questo medley con brani tratti proprio dal repertorio classico del gospel. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Soundcheck, il suono della musica. Dopo l'informazione di Radio 24 siete di nuovo ospiti del Soundcheck, la nostra prova del suono, pronti per darvi alcune informazioni sui prossimi concerti nel nostro paese e anche in giro per il mondo. Francesco, sei operativo? Operativo. Vai. Iniziamo. Allora, Avishai Cohen domenica, questa sera, al Teatro Kreberg di Bergamo. Poi Terence Blanchard insieme al suo E-Collective. Il giovedì 23 sarà al Blue Note di Milano. Bene. Fabrizio Bosso insieme al pianista Julian Oliver Mazzariello. Il 23, giovedì, al Bravo Caffè di Bologna. Bill Frisell al Teatro di Cormons in provincia di Gorizia, sempre il 24. Poi il sassofonista romano Stefano Di Battista all'Auditorium Luigi Candoni di Tolmezzo in provincia di Udine. Sì. Infine Paolo Fresu sabato 25 a Osasco in provincia di Torino al Jazz Visions. Infine chiudiamo con John Scofield, il trio di John Scofield, che sarà martedì 21 e mercoledì 22 al Blue Note di Milano. Scusa, ma tu hai sentito il nuovo disco di Scofield con Medeschi, Martin e Hood? Devo dire che ancora no, mi manca. Ma allora te lo faccio sentire io. Disco favoloso, si intitola Juice. John Scofield con Medeschi, Martin e Hood si ritrovano in studio di registrazione e creano qualcosa di speciale. Sì, qui andiamo, come dice il titolo del disco, al succo, e ti faccio sentire la loro versione di Light My Fire. Proprio ci riporta indietro nel tempo, quindi ci riporta Jim Morrison con i suoi Doors. Scofield, Medeschi, Martin e Hood in Light My Fire al Soundcheck. Light My Fire di Jim Morrison e Manzarek per i vecchi Doors, nella versione update di John Scofield con il trio Medeschi, Martin e Hood, album recentissimo che per la OK, distribuzione della Sony. Ascoltiamo un'altra traccia, il brano scritto da John Scofield si intitola I Know You. Scofield, Medeschi, Martin e Hood al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. il suono inimitabile del grandissimo John Coltrane in questa ballad scritta da Roger Sehart, It's Easy to Remember, brano registrato da Coltrane con il suo quartetto, McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria nel 1962, e tratto da un album capolavoro intitolato Ballads. Qualche anno più tardi, John Coltrane, che ormai aveva già sperimentato di tutto con il suo sax tenore e aveva reso il jazz un territorio contemporaneo e ostico per le orecchie non abituate alle sue sonorità, si ripropone in studio con un altro album morbidissimo e quindi la partecipazione del formidabile baritono Johnny Hartman, voce strepitosa, e quindi due album da non perdere, che poi sono stati pubblicati in altre versioni. Addirittura è stato stampato un album che contiene tutte queste tracce romantiche realizzate da John Coltrane, intitolato Coltrane for Lovers, pensa te. Bene, siamo ai saluti, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo che tutto l'airplay che abbiamo suonato ieri e oggi sarà presente nelle pagine del sito groovemasteredition.it. il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso, soundcheck@radio24.it. grazie a tutti voi, ci risentiamo la prossima settimana. Vi lascio in compagnia di un altro sax tenore formidabile della nuova generazione, quello di Jacques Schwarzbart, musicista poliglotta e anche un musicista che ha girato il mondo, ha realizzato l'ultimo album, si intitola Jazz Racine Haiti, con molti musicisti meravigliosi, un sound a cavallo fra il jazz e l'etnico. Il brano, con la partecipazione di Rosna Zila come vocalist, si intitola Bade Zile. A tutti voi buona serata, grazie al nostro Francesco Tromba. Come sei stato? Benissimo. E ti ringrazio. Dai che noi continuiamo, poi andiamo a fare una bella mangiata anche questa sera. Grazie a tutti, ci risentiamo il prossimo weekend. A tutti voi buona settimana e buona musica da Giorgio Telesforo.